La zanzara extra. Via! Da questo canale! Che l'uso di tutte queste sostanze chimiche per decontaminarci farà venire delle allergie alle quali non abbiamo pensato, oddio, delle belle reazioni, perché a furia di strusciare tutto con la Madonna, pulire, non pensare che è il disinfettante. Se noi ci mettiamo i guanti e poi con i manti tocchiamo la Madonna, gli lasceremo quello che abbiamo dentro. Io devo andare a Montecitorio a fare bordello. Tutto il popolo dobbiamo andare a fare bordello. Non ci dobbiamo fermare. Dobbiamo scendere nelle piazze con i megafoni, farci sentire, dire non ci stiamo con questi cornuti e fitusi politici. Ave Maria, Padre nostro e Gloria al Padre. Dovete fare anche voi per i vostri figli. Lottare, non vi dovete fermare. Se oggi vi capita che siete a Montecitorio e vedete quel palazzo, vi va di farvi un video e gridare fitusi, cornuti, fatelo, non dovete avere paura di multe. Accantoniamo, vaffanculo, ma almeno ci siamo fatti sentire. Conte, dimettiti. Tutti, Nino da Palermo, ex grillino palermitano, eccoci qui. Amico mio, Peppino, come stai, Peppino? Non c'è male. Ho visto con piacere che finalmente hai tolto i guanti, Giuseppe. Sì, bene, ragione, non servono un cazzo. Sì, hai capito pure tu che tu stai una picchiata a volo, Giuseppe. Adesso questo non lo so, però ormai, insomma. Ormai il danno l'hanno fatto, Peppino. Ora il problema è quanto deve durare questa presa in giro. Dico, secondo te è normale, Giuseppe, che i contagi calano e tutte cose calano, Giuseppe, ancora parlano tutte cose di a settembre gli alunni e le professoresse e le maestre con se la torna mascherina il virus, ancora, ti voglio ma vedere se torna malati, Giuseppe. Ti voglio vedere se torna il virus a scuola. Ma cosa vuoi vedere? Voglio proprio vedere. Tu sei la barzelletta dell'Italia, l'Italia è la barzelletta dell'Europa. Ti voglio proprio vedere. L'unico paese dove le scuole sono rimaste chiuse è Parenzo, lecca il culo a tutti. Ti voglio vedere. Ti voglio a Lazzolina. Ma non ho mai nominata Lazzolina io. L'hai votata tu Lazzolina. Somaro Dussomaro, quando eri un grillino rompevi i coglioni. L'hai votata tu Lazzolina. L'hai votata tu e la tua minchia di piattaforma Rousseau. Tu l'hai votata. Cornuto d'un cornuto. Tu sei grazie a Cruciani, cornuto che non sei altro che un cornuto. L'hai votata tu Lazzolina. Ma sì, benissimo. L'hai votata tu Lazzolina. Ridatemi Gottardo, porca bottana. Questo però è interessante. Cioè è interessante che Tramatti, grillino parlamentare, invochi il ritorno dell'altro buffone Gottardo. Questo è molto interessante, sì, però. Questo è significativo. Non ho altro da aggiungere. Mi fermo qui. Non ho altro da aggiungere. Però Parenzo ti stava replicando, dicendo che tu hai votato gli stessi grillini. Lazzolina, io non ho votato 5 Stelle. Lazzolina e tutta quella banda di microchip e microminchioni li hai votati tu e la tua piattaforma Rousseau. Hai capito o no? L'hai votati tu. Li hai votati tu. Cornuto d'un cornuto. Li hai votati tu e vieni qui a farmi la lezione a me. Brutto minchione d'un cornuto. Torna nella tua grotta, vota sulla piattaforma Rousseau e non rompere aprimi i coglioni. Quando finisci di imbecille parlare, non devi replicare, devi stare muto, muto devi stare, devi stare muto, perché li hai votati tu, devi stare muto, muto, devi abbassare gli occhi, muto, muto, muto. Calmiamoci, calmiamoci un attimo, calmiamoci un attimo, calmiamoci un attimo. Tu devi abbassare gli occhi, stare muto, perché li hai votati tu. Fine, muto, e con gli occhi abbassati, e con gli occhi abbassati, occhi abbassati, occhi che guardano la strada, tu, gli occhi che guardano la strada, tu devi guardare per terra, gli occhi che guardano la strada, muto devi stare, alla piattaforma rosso l'hai votata tu, la piattaforma rosso. Sfogati dietro la cornetta, sfogati. Pinnolone, pinnolone, pinnolone sei, pinnolone, pinnolone, pinnolone. Occhi a terra, occhi a terra, occhi a terra a guardare, occhi a terra, muto e occhi a terra, muto e occhi a terra. Allora scusami, questi assistenti civici come li hai presi tu come ipotesi? Assistenti civici, io come dice Barbarella D'Urso col cuore, gli volevo dire di evitare di fare concorsi e tutte cose, altro perché praticamente quando pigliare solo vai sonate, Giuseppe, capito? Questo mi pare palermitano. Giuseppe, gli piace Giuseppe, capito? Avete sentito, ascoltatori, come sono? Alla fine parlano i numeri, perché da quando siamo liberi i contagi scendono. Da dopo tre mesi di galera arriva un assistente civico e mi dice a me che tu che fare, io piglio a posto con il frontiere, Giuseppe, e fanno accogliere l'ambulanza. Inizio su assistenti civici, l'idea di Boccia. E tu appoggi Boccia, Parenzo, e tu appoggi Boccia, hai appoggiato questa cosa qua, l'hai appoggiata fino in fondo. Ma non l'ho appoggiato questa cosa, ho detto che non mi sembra una cosa. Raccontami una cosa, Nino, dimmi. Allora, c'è mio nipote che sta a Swansea, in Galles, Giuseppe, ieri eravamo in videochiamata e mi sono accorto che lui era in giro lì in spiaggia, tutta la gente tranquilla, e non c'era uno, cazzo, uno che portava la mascherina, uno non c'era. Cioè, me ne può, ma spiega una cosa, come ho fatto la chissi? Dice, ma qua non c'è obbligo, nemmeno dentro i supermercati te la richiedono, dice, ci sono i cosa apprezzati di usare la mascherina, ma nessuno ti rompe i coglioni. Ma come è il suo fatto che qua dal 20 di aprile, come dice Sgarbi, perché negli ultimi tempi sono d'accordo pure con Sgarbi, vedi cosa la vita, Giuseppe, un po' ho rivisto, praticamente dal 20 di aprile arrivano queste mascherine, ora mai state tutte baidate per questo pure all'aperto, ma che minchia le vergogne è? Ma ancora prendono per il culo la gente, ma stanno tirando la corda così tanto che questi vedo le pietre si prendono, Giuseppe, oggi di monetine ai tempi di cazzi, chi si pigliano i pesati, i balatate, chi si pigliano, Giuseppe. Io dunque tu non la porti praticamente. Io se sono costretto per lavoro, giustamente, ma mi metto, perché sennò mi fanno qualche €100 di balla mia e mi consumano, ma mi metto. E ti devono dare la multa, non ti devono io dare. Occhi a terra. Quando sogno la mia macchina privata, io mi metto la mascherina, non me va a cagare la minchia. Occhi a terra e muto, occhi a terra e muto devi stare, allora, occhi a terra e muto. Perché deve stare muto? E camminare raso muro, camminare raso muro, occhi a terra e muto per quello che hai fatto. Che tu hai votato i 5 Stelle, hai votato. Tu li hai votati tu e adesso vieni a fare la lezione. Ora viene a fare la lezione ora. La ma quale è purato? Ma figurati, purato, ma quale è purato? Io non ne puro nessuno. Semplicemente il circo tornerà, non ti preoccupare, che il circo tornerà, non ti preoccupare. La donna barbuta torna. Tu sei lì come quello che interrompe sempre, ci caga minchia Chissiani e gli fa impazzire. Gottardo, ma chi sei tu? Don Giussani interrompe sempre, ma che dici? Interrompe sempre. Ma chi sei? Tu spalle al muro, occhi a terra e devi stare muto, perché con la piattaforma Rousseau ci hai rotto i coglioni per 20 anni. Andiamo a risentire cosa diceva sto buffone anni fa, che la piattaforma Rousseau, i meetup, cornuto, muto, acqua in bocca. Tu ti dovresti vergognare, dovresti bere l'acqua, tenerla in bocca, tieni l'acqua in bocca, acqua gasata in bocca. Tu ti devi acqua gasata in bocca, sguardo a terra e camminare a rasomuro. Non serviva, ora sei il cane da guardia di Conte. Questo... tu sei un meideghizzano, Parenzo. Tu non sei meideghizzano, sì, padre. Questo è vero, che prima eri contro Conte, adesso è contro Conte. Chi è questo signor nessuno? Ora davanti al suo acqua gasata in bocca. Conte, acqua gasata, acqua gasata, acqua gasata in bocca, camminare raso muro, occhi che guardano a terra, e moto devi stare con l'acqua gasata in bocca, acqua gasata in bocca, occhi a terra, e camminare raso muro, perché così tutto gonfio con l'acqua gasata, vedete che non riesci a parlare, c'è tutta l'acqua in bocca, tutta l'acqua gasata, acqua gasata in bocca, camminare raso muro e sguardo a terra, e moto devi stare. Ciao Nino. Oh, grande Cruciani, anche tu mi hai aiutato a smettere di drogarmi. Sono pulito da 6 mesi quasi. Non tocco cocaina e crack da 6 mesi. Sono veramente un'altra persona. Ho salvato qualche dente. Vi ringrazio, grazie a tutti. Grazie a tutti, ciao, ciao, arrivederci. Sento le voci, sì, mi sento chiamare dalle mie fantasie. Yeah! Dal fondo del mare. Dei sogni inconfessabili. Sento le voci, sì, mi sento chiamare dalle mie fantasie, dal profondo del mare, dalla TV, dalle porcherie, dal silenzio dei sogni inconfessabili. Demone scimmia! Demone, perché ha chiamato oggi? Com'è la situazione lì in comunità? Ma solita merda! Un dottore chiamato un dottore. Cosa? Qui c'è un ragazzo che muore affogato nella palude. Quando? Del Nazional Popolare. Non vedo la lucetta rossa. Come mai? Vai Franca, dimmi. Sì, pronto. Dimmi Franca, dimmi, dimmi. Dunque, allora, io sono indignata. Io sento Radio 24 dal primo giorno. Sì, allora Franca. La sento sempre. Sì, sì, allora? Sì, la sento sempre. Dunque? Però ormai penso che sentirò tutto il giorno, sì, e spegnerò quando c'è Radio Indara. Oh, finalmente. Sono, sarà, sono indignata. Sarà contento Parenzo. Non ce ne frega un cazzo, posso dire. Però come me ci sono delle persone che la pensano allo stesso modo. Ma chi se ne frega, allora, Franca? Lei è libera, prima, libertà, libertà di dire, di fare quello che vuole. Appunto, allora, finisco di parlare, poi viene pure al telefono. Viene pure allora, al telefono. Ha parlato un deficiente, sì, un sì, Mino Sabes, che ha detto che non esiste 100.000 morti che muoiono là, 50.000 che do, tutti così, con l'influenza. E quindi non è stato subito, io dopo la radio l'ho spenta. Ma quello, amica mia, quello là, quello è, là è un signore che si chiama l'ingegner Negri. Praticamente per fare audience si dà la parola, sì, a molto dei pazzi, dei deficienti, degli ignoranti, esatto, senza esatto, pensare esatto, che ci sono degli altri, brava, deficienti che ci credono. Allora, e allora? Allora parli con il presidente della Confindustria. Radio 24 è una radio stupenda, sì, ma io bravissima, la Zanzara sì, a questo momento Non la metto neanche per anch'io, un minuto. Io la, non anch'io, vale la io la chiamerò io, vale, sera, Franca, io la chiamerò ogni sera. La posso dire, la chiamerò ogni sera. Questa qua la richiamo dopo, ciao. La Zanzara finisce sempre così quando siamo io e te, io e te. Prima dici di no, poi finiamo in hotel. Il tuo corpo è una giostra e non voglio scendere. Cosa stai pensando? Non rispondi, ma ci prendo. Sì, Emis. Sì, eccoci. Come andiamo, amico mio?

Sono molto geloso, sì, sì, no, no, no, non potrei mai permettere una cosa del genere, però insomma, sì, quando una ragazza è singola è libera. No, ecco, questa è una roba che fa incazzare anche me, cioè quando c'è questa ipocrisia di dire che gli uomini possono fare, ma la donna no, perché quello no, cioè, certo, se una donna vuole divertirsi è tutta, cioè, ha lo stesso diritto di abbiamo di scoperto farlo, che sei possessivo, tu sei geloso e possessivo e non potresti sopportare il fatto che una ti fa le corna che va con un'altra e magari te lo dice, non lo sopporteresti. No, assolutamente no. Ciao Emis, abbracci. Ciao, ciao, presto. Ciao. Ciao. Ciao, siamo le radio italiane, tutte insieme per costruire la più grande avventura del 2020. I love my radio. Aiutaci a scegliere la più bella tra le canzoni italiane che abbiamo suonato dal 1975 ad oggi. Ma come ricordarlo? Ora non sono una signora. 45 successi firmati da 45 grandi artisti. Se vuoi chiamiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Alla fine dell'estate celebreremo insieme con un evento speciale la storia della radio e della musica italiana. Volerei da te da Milano fino ad Hong Kong. I love my radio. Tutte le radio unite per l'Italia. Vota la tua canzone preferita su ilovemyradio.it. La Zanzara. Ehi, Anna, ci beccavamo nel bando sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questa diesel. Bando sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questa diesel. Infatti, avete un po' paura, se tutti sono un po'... Non ce n'è Covid, non ce n'è Covid. Giuro che sono bambino, non sei 2000. Vorrei avessi la fame la mia per capire le cose. Divido l'acqua e mose, vedo un po' mosse, situazioni e cose. Dico cose le faccio, no, non parlo e basta. Cosa? Non ne so, fa meglio smetti col rap. Oppure talent, giuro, fanno per te. Per fare sti bands mi divido in tre. Se sono un minuto, cazzo ho fatto fra te. Fate gli zanzari e poi passa la stessa e piangete. Meglio vi sedete col pallone in rete. Non rappi di nulla, zia, proprio di niente. Se chiedo in giro non dico che sei demente. Vendo sopra il booster. Pronto? Sì, Kark? Sì. Buonasera, con chi parlo? Qui è la radio dei padroni, Radio 24, buonasera. Ciao, dimmi, sì, volevi qualcuno in particolare? Sono... No, no, no, volevo parlare con qualcuno dei Kark che hanno rivendicato questa scritta su Fontana. Mi ripeti chi sei? Che... E sono Radio 24, la radio dei padroni di Confindustria. Sì, un attimo. Prego. Pronto? Sì, con chi parlo? Eccoci. Buonasera. Pronto? Sì, con chi parlo? Buonasera. Ciao, sono Pablo Bonuccelli. Ah, caro Pablo, sono Cruciani, come stai? Benissimo, abbastanza. Senti, ma non ho capito, ma voi veramente avete rivendicato questa cosa di Fontana Assassino? Abbiamo rivendicato una scritta, certo. Cioè, guarda, Fontana Assassino, adesso amico mio, va bene tutto, per carità, certo, capisco che è assassino, i morti, no, eccetera. Niente, a Fontana Assassino, non dico che è un'incitazione, ma quasi, siamo lì. Cosa? Beh, insomma, uno dice Fontana Assassino... All'odio. 15.000 morti cosa sono? Incitazione a cosa? No, ma scusami... Ma mica li ha uccisi lui... Chi è che ha fatto la delibera che ha mandato i malati Covid nell'RSA? Ma c'è un'inchiesta della procura, vedremo le responsabilità. Ma se uno dice Fontana assassino con la falcia e il martello, che proprio, cioè vuol dire, no? Ma c'è la falcia e martello. Non mi piace la falcia e martello. No, la falcia e martello, il comunismo, certo. Mi inquieta un pochino, eh? La falcia, il comunismo non è proprio. Avete ragione. No, ma noi siamo la radio dei padroni, figuriamoci, la radio di Confindustria. E quindi ci credo che voi altri non capite sta roba. Cioè, quella là è un'incitazione a qualcuno a dire no, quella persona lì ammazza... No, scusatemi, vi faccio una domanda contraria. Dimmi, perché dimmi. Non assassino? No, ma ho capito, ma se uno dice Fontana assassino, dice, mette come immagine una persona che ha ammazzato 15.000 persone, dai, su. Immagina, no, non ho capito perché Parenzo cioè, fa dei rumori molesti, scusami, non riesco a capire. Scusami, amico mio, allora, aspetta, se uno scrive assassino, vuol dire che è un criminale. Se uno mette assassino... Certo. Ma ho capito, però qualcuno può pensare, cazzo, questo qua ha ammazzato 15.000 persone e facciamolo fuori, o no? Ah beh, ma io mica sono responsabile, anche voi dite un sacco di stronzate, ma mica siete responsabili di quello che fa uno che sente la vostra trasmissione. Noi non incitiamo, amico mio, non è che io dico Pablo assassino, Carcas. Ci mancherebbe, io non ho mica posso dire, nessuno. Posso dire che i comunisti... Io l'ordinanza dell'RSA, amico ma mio. Ma cosa c'entra l'ordinanza? Cioè, la radio dei padroni sembra della radio degli netti. Cioè, questo è un discorso semplice da capire. Ah, semplice da capire. Qualcuno ha una responsabilità di aver mandato dei malati di Covid, di anestesia agli ospedali nell'RSA. Ma quello vedremo. E sono morte complessivamente in questa regione 15.000 ma cosa persone, c'entra? Che grosso modo è il 5% dei morti mondiali. Ma stai dando ma di che cazzo state parlando? Ma stai dando dell'assassino a un presidente di regione senza prove, senza alcuna senza prova prove, ancora. Quali sarebbero prove? La prova? I morti? I morti solo sarebbero la prova? Che cosa? Le delibere? Che ti metti a fare? Il magistrato? Che cosa no, ti metti a fare? E allora? No, io non perseguito i lavoratori, non faccio il lavoro dei magistrati. No, no, no, no, no, no, no. Allora, ma hai scritto Fontana assassino? Sto dicendo che qua ci siamo rotti il cazzo di pagare delle persone che hanno smantellato il servizio sanitario e pubblico. E non lo votare, non lo votare. Hanno 15.000 morti dicendo non ho sbagliato niente. Ma quelle... che campano non lo sul votare. Lavoro di milioni di persone che pagano le tasse, cioè i loro stipendi. Ma parli tu che vuoi il comunismo. Che sia tutta una grande ma tu vuoi il comunismo che è la morte, che è stata la morte. Ma no, per dire parli tu, sì, io dovrei dire assassino certo, a te che vuoi no, il comunismo. Ma siamo cruciali, ti mandiamo a lavorare, che per te forse è la stessa cosa. Non hai capito. Ti fa cagare lavorare. No, io lavoro molto più di te. Io lavoro molto più di te. Io lavoro molto più di te. Ma ammazziamo, noi ti mandiamo a lavorare. Io lavoro molto più di te. Tu non mandi a lavorare nessuno, non ti preoccupare, che non, c'è, no, non siamo ancora ai lager. Molto più di me, caro non si, mio. E quello è un altro discorso. Come forse e come sta, come forse sta perché me lo merito. Forse perché me lo merito. In un paese normale, io non dico nella Russia sovietica, che quello sono come dire, sono livelli che. È quello che vorresti tu. Quello che vorresti tu. Sviluppo dell'umanità. La Russia sovietica è sviluppo dell'umanità. Ma vergognati. Oggi sarebbe alle misure cautelari. Sì, le misure cautelari. Questo mio, in Unione Sovietica. Forse questo qua è l'Unione Sovietica. In Romania. Dire, non ho sbagliato niente, rivendico tutto. Io la notte dormo tranquillo. Quella è la politica. Quella è la politica. A te, tranquillo. A te. Perché il processo non glielo fanno a Fontana. E chi Formigoni, che ne sai che non glielo fanno? Ma che... cosa ha fatto? 3 settimane di galera. Ma che ne sai? Eppure la sanità pubblica. Sì, va bene. Ma, quella, ma non lo andare a votare. Ma non lo votare. Non è che gli devi dire assassino. Non lo votare. Ma tu non credi nella democrazia. Pensate come siamo messi. Scusa. Costituzione alla mano, io dico quello che cazzo voglio. Ma tu, infatti, per fortuna, okay, perché c'è la democrazia, però. Quindi, perché c'è la democrazia. Ma il problema, quello che io dico non dico, questo no, è un problema. Amico tuo. Mio, guarda, io sono contrario a qualsiasi indagine su di te della Digos e della polizia, non ti preoccupare. Uno che scrive Fontana assassino con la faccia a martello, per me è semplicemente un coglione, punto e basta. Ma scusa un secondo, ma tu mi hai chiamato per darmi del coglione? Anche. Anche. Io non posso scrivere, ammesso che sia stato io, perché chiaramente non posso rivendicare. Beh, che ci sia stata una scritta che dice fai? Fontana assassino. Che fai il paraculo? La tua libertà d'espressione? Che fai il paraculo? Che fai il paragulo? No, dici no, non no, siamo ti stati sto noi. Sto facendo capire che sei un coglione. Uno che scrive Fontana assassino va indagato. Punto. D'accordo, io non sono come Cruciani. Io non ho nessuna per incitamento all'odio. Perché se tu dai dell'assassino a uno, legittimi sì? qualcun altro a colpirlo. Perché no, un assassino va sbattuto no, in galera e va no, arginato. No, quindi no, per no, me no, tu sei uno che incita all'odio. Capito? E tu col comunismo non c'entri assolutamente un cazzo. A paraculo, a paraculo. Il comunista, a paraculo, il comunista incita la procura a fare il suo lavoro. Prima scrive Fontana assassino e poi incita la procura. Ma vergognati di non prenderti manco la responsabilità di quello che dici. Vergognati, tu la realtà è che vorresti Fontana al muro, vorresti Fontana al muro e non hai il coraggio di dirlo, lo vorresti. Stai valutando la Barbara D'Urso. Ma che c'entra Barbara D'Urso? Lo vorrei. No, la trasmissione più interessanti, Giletti, Barbara D'Urso. Certo, la Barbara D'Urso è molto interessante, non c'è dubbio. Giletti anche. Allora tu al muro, tu al muro lo vorresti mettere, solo che non hai il coraggio di dirlo. Tu lo vorresti mettere al muro, magari messo là dal Tribunale del Popolo. Hai appena detto che l'Unione Sovietica era un grande paese, era una grande cosa l'Unione Sovietica, ma non ti vergogni? Era una grande cosa. Cioè, te parli di vergogna dell'Unione Sovietica, ma te non sei niente. Ma tu, ma cioè, guarda, la verità guarda, è uno che scrive Fontana assassino con una faccia a martello, con una faccia a martello. Un paese in cui governavano i lavoratori, capisci? Tu questa cosa ti terrorizza, io capisco. Aparezzo, rispondigli tu. Questa cosa a voi vi terrorizza, io capisco. Giustizia di classe. Giustizia cioè per tutte quelle persone che vanno a lavorare. Mentre tu stai giocando a fare la rivoluzione, c'è della gente che sta andando a lavorare. Una cricca di parassiti maiali come Confindustria, che è quella che ti paga a te per dire ste stronzate, chiaro? Però, te sei pagato con il lavoro di migliaia di operai imprenditori, che vengono pagati 1.400 euro al mese, imprenditori, magari, gente no? Che dà lavoro e crea lavoro, imbecille, anziché scrivere sui muri. Cioè, a te ti pagano per fare sta scenetta a telefonare alla gente che sta facendo i cazzi propri? A me mi pagano per fare il cazzo che mi pare, la grande libertà che tu non conosci essendo comunista, capito? Io sono una persona libera, tu sei comunista, queste sono già due cose diverse, o fascista che è uguale, cioè è la stessa cosa, capito? Per come me è la stessa cosa. Uguale. È uguale, per me è la stessa cosa. Per me è la stessa cosa. Guarda, che ti trema sempre hai di fatto più la l'elogio voce dell'Unione Sovietica, il che ma dire tutto. Hai fatto l'elogio. Ma vegani che ti tirano i salami, dai. Hai fatto l'elogio dell'Unione Sovietica, amico mio, è tutto dire. Ma sempre io che mi ero vitale. Vabbè, che cosa vorresti per Fontana adesso? Dimmi,

dando dei danari con cui hanno già deciso di comprare le armi per fare attentati in Israele e in tutto il mondo occidentale. Questo faranno. Quindi questa farà attentati. No, faranno i terroristi. Faranno gli amici della nostra babba, li stanno già preparando, caro mio. Ma sei proprio ignorante. Tu invece di vedere dei film, vedi Paperino. Sei un povero cretino. Guardi Paperino e ma lo hanno detto loro. Vedi le bombe, non le vedi. Una serie, guarda che l'hanno già fatta una serie simile, si chiama Homeland. L'hanno già fatta questa storia, inventatene un'altra, si chiama Homeland. Si chiama Homeland. Inventale tu, rinnegato. Ciao Vittorio, rinnegato. Avanti tutta. Ciao. Rinnegato. Ciao. Lei deve ringraziare gli italiani, non lodare i suoi rapitori. Occupati di Caravaggio, che è meglio. Ma che cazzo dici? Occupati di Caravaggio. Sei ignorante. Occupati di Caravaggio e del Correggio. Occupati del Caravaggio, che è molto meglio. Ma che c'entra? Occupati di quello, che è molto, molto meglio. Meno pericoloso. Tu sei contro la libertà di espressione. Sei contro la libertà. Perché ieri quando hai detto ieri quando abbiamo parlato di questa cosa di una possibile indagine su Sgarbi, hai detto bene, giusto, bene, giusto, bene, giusto cosa simile. Ma che cazzo c'entra l'odio? Ma non dire cazzate. Scusami, una è sta rapita per 18 mesi, torna in Italia e si becca pure questa montagna di merda. Ma che stiamo scherzando? Ma è pazzo questo, è pazzo. Vabbè. Ciao Vittorio, ciao. Ciao, manda a fare il culo quel parente, non chiamarmi più con lui, non è più un amico, è un nemico dell'Occidente, è un nemico di Israele. Non voglio più neanche parlarti. Pensa Caravaggio, tu va. Sei finito. Non voglio più parlarti. Caravaggio, Caravaggio. Vai dai tuoi amici, vai dai tuoi amici terroristi. Vai dai tuoi amici terroristi. Fuori dai coglioni. Non voglio più vedere uno pericoloso per la democrazia come te. Non lo voglio più vedere. Del Correggio. Occupati del Correggio. Fuori dai coglioni. Ciao Vittorio, ciao, ciao. Gianni, voglio un tuo commento a caldo su un giovane Parenzo che post giornata di sci legge La Repubblica. Siamo al top. Master. Salvini, ma lei fa i bocchini. Roberto da Messina, la città Messina non ti tranquillizza, caro Davide, eh? La città Messina non ti tranquillizza da lì, per niente. Purtroppo arrivano sempre brutte notizie dal suo sindaco fino ad altri personaggi che la popolano, senza nulla togliere alla bellezza di questa città. Dimmi Roberto, dimmi. Salve, buona serata. Innanzitutto dico una cosa che non c'entra con quello che devo dire. Non sono d'accordo con la signora che ha telefonato prima. Ma chi? Perché la signora che diceva che bisogna chiudere Radio 24. No, Radio 24 la trasmissione, la radio, per carità. La Zanzara, sì, perché sì, uno sì, può essere zanzara, non esatto, d'accordo questo su una cosa, ma l'opinione, no, ma non, di espressione. Ma non è l'opinione, sono i toni, di dieci anni di gente che non è sostenibile. Secondo me, ma è un parere, Parenzo, un'opinione, non è sostenibile. Sono sempre stato un tuo sostenitore. Però, anch'io, grazie. Ora, quello che voglio dire, telefono da Messina, che è una città tranquilla, anche se il nostro sindaco ha fatto lo sceriffo, ma ora ha fatto un po' di marcia indietro. Ma comunque, volevo dire, io sono un percettore di reddito di cittadinanza, e volevo dire la mia: io sono un invalido civile con molte patologie. Non sono più riuscita a rientrare nel mondo. Aspetta, pronto? Pronto, chi parla? Con chi vuol parlare? Franca, è lei? Sì. Sono Cruciani, buonasera. Buonasera. Allora, non ho capito cosa vuole da noi. Mi spieghi io bene. Non voglio niente. No, lei ci ha rotto le balle. Ha telefonato per rompere le balle. Ha telefonato. Ha telefonato per rompere le balle, chiaro? Sì, ha telefonato. Certo. Perché voi l'avete rotta a me e rompete un sacco di bravissima, gente. E lei, bravissima, con la sua intelligenza, la sua cultura, mi meraviglio. Signora, che si lei è una... molte volte come si comporta. Brava, signora, questa Franca, è una trasmissione. Grazie. No, richiamate un po' questa brava vecchia. Richiamate un po' la vecchia. Questa richiamate signora un po' la ha posto una questione verissima. Dimmi Roberto, dimmi. E allora, praticamente stavo dicendo che io sono percettore di reddito. Sì, questo lo devo lei prendere di cittadinanza. Bene, allora. E praticamente ho diverse patologie, sono pure invalido civile, non sono rientrato nel mondo aspetta, del aspetta, lavoro. Aspetta, aspetta, Robè, aspetta un attimo, aspetta. Finta, la smetta di telefonarmi perché non ho niente da fare. Guardi, cara Franca, io sono incazzato nero, cara Franca, per quello che per io quello che ha detto. Io sono anch'io incazzato come una bestia, sono incazzato come una bestia. Come due bestie. No, sono incazzato come una bestia e veramente. Porta rispetto per la Franca, no. Porta rispetto per la signora Franca immediatamente, che è una signora per bene, che ha posto un tema molto serio, una questione che io voglio portare all'attenzione dei nostri editori. Ma questa Franca è completamente impazzita, secondo me è pazza totale. No, no, io non sono impazzita, io ho un equilibrio enorme. Ma quale equilibrio? Ma quale? Ma se lei ascolta questa trasmissione non ha equilibrio, quello mi appare chiaro, non ma ha equilibrio, ed è giusto. Non l'ascolto quasi più. Ma ok, perché lei è una trasmissione porno. Porno, giusto, porno, giusto, porno, esatto, porno, che giusto, le cose che sì, le dice ogni tanto. È vero, trasmissione porno. Perché lei non passa, a lei non piace il porno, signora? Non ho capito. A lei non piace il porno? Questa è una trasmissione pornografica, mi chiaro? Piace l'educazione. A me piace l'educazione, le cose dette con l'educazione. Ma lei ho una radio che non ha l'educazione. No, punto. Questa è una radio, questa è una. Questa è una trasmissione pornografica. Io non la sento, peso per me. Ma questa è una trasmissione. Esatto. No, ma quando c'è la zanzara, ma ha ragione, ci vuole educazione. Signora, ha ragione. Aspetta la signora un attimo, Franca. Franca, ragione, scusami un attimo. Allora, la cosa fondamentale è questa. Guardi che anche alla sua età il porno fa bene, non è male sentire qualche cosa di. Certo, ma privato, ma privato. No, ma che privato? Pubblico, volcare, pubblico, pubblico. La figa certo è figa, il culo è il culo. Si deve parlare ma così. Ma non c'entra. Ma è inutile sbattere in faccia le cose alle persone. Ma certo, la realtà, la realtà, la realtà. Scusi, Freccero, vuole spiegare. Freccero vuole spiegare a questa signora. Freccero, aspetti un attimo. Freccero, scusi, vuole spiegare a questa signora che cos'è la realtà. Lo spieghi un attimo che cos'è la realtà. Naturalmente la nostra. Se io la mia età non lo so. Aspetti, aspetti un attimo che Freccero deve spiegare che cos'è la realtà. Naturalmente la nostra telespettatrice, naturalmente. No, radio ascoltatrice. No, esiste solo la televisione, dai, la radio. Dio la parola, dai, non si vede l'immagine, brutto ormai, superato. Vabbè, la nostra allora telespettatrice naturalmente deve cominciare. Aspetti, lasci parlare Freccero, lasci parlare Freccero, che cazzo, un attimo. Deve capire la nostra telespettatrice che noi dobbiamo raccontare il paese, la realtà, la violenza naturalmente. Esatto. E quindi sentire questo grido di dolore di questa vecchia, di questa no, signora, non è un naturalmente. Un grido di dolore, casomai di indignazione. Naturalmente, e questo fa ascolto, allora l'indignazione. Benissimo, l'indignazione funziona, la rabbia. Aspetti, lasci parlare dottor Freccero, che detto cazzo? Mi lascia dire una cosa, ma che cos'è, lei è un virologo, mi lascia per piacere dire una cosa, dai, la rabbia tiri fuori, la rabbia, quella è la realtà. Rabbia? Ma io sono una ecco persona contenta, felice, ma allora non fa scopo, e allora ha sbagliato tutto, deve guardare Montalbano lei allora, e guardi Rai 1 allora, e allora si deve guardare Rai 1 lei. Ma lasci parlare sì Freccero, non interrompa Freccero, ma non interrompa Freccero. Basta, io Freccero, io sono Franca e lui è Freccero. È un attimo, allora cosa? Questa rabbia, io voglio sentire la rabbia della vecchia, voglio sentire naturalmente. Io sento il quadro, dalla mattina alla sera. Ha detto che vuole sentire. Poi la vostra trasmissione, spesso, anzi quasi sempre, travalica il buon gusto, il buon senso. Parla come Brusaferro, perché questa non è sbattendo in faccia le cose che diventano interessanti, fa la morale. Le cose non importa sbatterle in faccia. Aspetti, la nonnina che fa la morale, che hai detto parla come un virologo. Aspetti un attimo, aspetti un attimo, aspetti. Ma sì, la nonnina che fa la morale, dai, non funziona più. Cruciani, allora prima ti stavo dicendo che sono 100 milioni di volte d'accordo con Sgarbi, con tutte le parole che ci ha detto a quel testa di Parenzo. Poi un'altra cosa. Dimmi. Vorrei sapere se poi dimmo cosa ci ha promesso Conte a Matteo Renzi per non far cadere il governo. Non lo so, amico mio, ma tu sei uno storico nemico di Parenzo, caro Ettore, mi sembra. Io no? Sono storico amico di Parenzo, no, perché nemico, la testa di cazzo così io non l'ho mai è un comunista. Buonasera. Un fascista. Buonasera. Hai la radio accesa, Ettore. Ettore, sono la radio. Su con Salvini. Spegni la radio, due. Però, Ettore. Spegni. No, scusi, Ettore. Spenga la radio, ma colleghi il cervello, però. Mentre spegni la radio, collega il cervello. Perché non sei altro. Non si può dire nello stesso momento fascista e anche comunista. È un po' difficile dal punto di vista della logica, capito? Ah no, c'è il fascio comunista di Pennacchi, però è un'altra cosa quella. Tu mi devi spiegare perché ce l'hai su con Salvini, che non capisci un è il numero uno dell'Italia. Beh, è il numero uno dell'Italia. Lei, scusi buon uomo, prima di Salvini, per chi votava, bravo uomo, lei? Prima dell'arrivo di Berlusconi, votava Berlusconi. Prima ancora di Berlusconi, prima diciamo, negli anni 30, ad esempio, anzi a cavallo, tra il 1938 e il 44, lei come si posizionava in Italia? Non c'ero in quel periodo lì. Meno male. I suoi genitori come si posizionavano? Non mollare. Come si posizionavano i suoi genitori durante il secondo conflitto bellico? I miei genitori non li devi neanche nominare, testa no, di ma cazzo. Come si collocavano? In che area si collocavano durante il secondo conflitto bellico? Perché mio padre ha lavorato 50 nazionalsocialisti anni forse. Nazionalsocialisti forse. Bravo Ettore, vai all'attacco, non mollare. Mi devi spiegare perché c'era su con Salvini, Pesteri che è il numero uno in Italia. Aspetti, però, adesso questo l'abbiamo capito. Questo è il l'abbiamo capito. Amico. Ah, è suo amico. Ah, interessante questo. È suo grande amico proprio. Dico una cosa. Scusi, lui, sì. Io sono un tassista, è 4 mesi che siamo qua a Malpensa alla fame. Scusami Ettore, ma tu hai anche qualche simpatia per il signor Mussolini? Cioè anche qualche simpatia per il signor Duce? No. Però i comunisti non ti piacciono. I comunisti non ti piacciono, però. No. I comunisti come Parenzo non mi piacciono sicuramente perché c'era su con Salvini che è il numero uno in Italia. Ma io sono la comunista, è il numero uno in Italia. Di cazzo lì che non capisce niente. È il numero uno in Italia. Le piace Cruciani però a lei anche, giusto? Anche Cruciani è il mio grande amico. Cruciani, Salvini. Ah ok, quindi Cruciani, Salvini, Del Debbio le piace anche, ma anche Del Debbio, benissimo. Anche Giordano, mi ha preceduto, la ringrazio per questa cosa, grazie. Quindi, tu sei una testa di cazzo. Io sono una testa di cazzo, chiaro. Sì, no, ma va bene. Io ti ho anche portato sul taxi quando c'era la storia. Mi ha anche Stasi. Portato sul taxi, sì. Ma hai rotto i coglioni di Alberto per tutta Stasi la quando all'epoca ha pagato il taxi. Lombardia. Però ha pagato, non me lo taxi. Ha detto ha brutto coniglio. Quando sono salito sul taxi, non me l'hai detto. Quando sono salito sul taxi, brutto coniglio. Brutto coniglio. Brutto coniglio. Brutto coniglio dal taxi pure sporco, se ora mi ricordo. Coniglio dal taxi pure sporco. Ma tu sei un cretino. Te lo dico io, te lo dico io. Brutto coniglio. Questo è grave. Coniglio. Questo è grave. Coniglio. Senti una cosa. Coniglio. Se io ti becco per strada ti faccio vedere io che sì. Coniglio che non sei altro. Questo è grave. Però fermiamoci un attimo. Abbiamo grave, detto che grave. le piace sì, Giordano. Ti ha detto che il taxi è sporco, ma non ti piace. A lei piace. Non è vero. Sì, ve lo ricordo dalla voce. Adesso l'ho riconosciuto dalla voce. Aveva tutti i peli di gatto sul taxi, una schifezza assoluta, una porcheria. Gatto, sì, era il gatto di Feltri. Era il gatto di Feltri, infatti. Era il gatto di Feltri. Era proprio il gatto di Feltri. Fermi tutti. Infatti, era il gatto di Feltri. La zanzara. C'ho poco segnale, ti scrivo su WhatsApp. Voglio vivere solo i giorni lunghi e comunicare solo coi gerundi. Voglio uccidere persi noi defunti, i poeti morti ti spazzano. Voglio vivere solo i giorni lunghi. Pronto? Yeah, Esther? Sì, sono Esther. Sono Cruciani, come stai, cara Esther? Ciao, carissimo. Ma ti sento sto con una voce bene, squillante. Tu come stai? Ma ti sento con una voce squillante quasi da nani. I nani. anni. Che in cazzo. Anni. Cambiamola, cambiamola così. Il virus, cambiamola. Il virus, il virus, il virus, il virus. Lo avete visto? Facciamo il Covid. Senti, non ho capito che succede. Tu stai bene innanzitutto. Mi sembra che tu stia bene. Io sto bene perché prima di tutto sto vivendo in una casa che è molto carina, che ho trovato. Ma sei uscita dall'ospedale? Mio. Sì, sì, certo, io sto vivendo a Genzano di Roma. Che succede a Richard? Ho sentito che succedono delle dov'è? Cose. Sono 3 anni che vive a Villa delle Querce a Nemi e non lo fanno uscire. Richard sta soffrendo come una bestia perché logicamente ci sta col cervello. Ma io l'ho visto, suona, ho visto che ha suonato. E ancora ci sta con la testa. Quindi non capisco il motivo per cui lasciarlo ancora lì dentro. Ma perché magari non vuole andare via lui? No, lui ci vuole andare via. Ma come tutti i giorni mi dice Esther, portami via da sto posto che è orribile. Sembra un lager invece che un ospedale. Ma non lo so, proviamo a fargli una telefonata su. Cioè. Pronto? Yeah. Richard? Sì. Aspetta che ti sento male, qui c'è Esther. Richard? Sì? Ma Richard, guarda che sono Cruciani e Parenzo, sei in diretta. Togli sto viva voce che non si sente in cazzo. Sono in diretta? Sì, dimmi. Senti, ma come stai lì? Dice Esther che vorresti andare via. Io me ne vorrei andare via, sto male, come un lager stare qua, eh. Addirittura? Ma sì. Che succede, scusami Richard, che succede? E niente, mi tengono quasi prigioniero, ormai sono 3 anni che sto qua e me ne voglio andare via al più presto. Ma possibile che ti tengono prigioniero addirittura, cioè che non puoi varcare quella soglia? Cioè, no, non può varcarla. Cioè il dottore deve parlare con l'amministratore di sostegno, l'amministrazione di sostegno deve parlare col giudice. Poi te lo spiegherà Esther nei minimi dettagli quello che succede. Secondo me se tu cacciassi uno dei tuoi mitici urli ti farebbero uscire immediatamente. Non penso, guarda, no. Ci sono delle cose burocratiche che sono al di sopra di me. Lo so. Non riesco a controllarle. Comunque la situazione è questa, tu vorresti uscire e bisogna che qualcuno ti autorizzi ad uscire da quella roba là. Sì, comunque adesso sto bene, mi sento benissimo, il medico ha detto che non ho problemi. Stai scrivendo qualcosa, maestro? Sto scrivendo molto, sta tutto su YouTube se vuoi vedere. Dimmi, dici le ultime cose che stai facendo, dici un attimo l'inizio di un tuo testo, maestro. Vabbè, c'è Incinerator, ci sono tanti pezzi acustici che ho scritto, stanno tutti su YouTube, Li potete trovare tutti su YouTube. Va bene, amico mio. Caccia un urlo finale. Inani. Beh, ma sei tornato quello di prima, Richard. Certo. Inani. Si può dire il Covid. Il Covid. Ma come stai? Hai paura del Covid un po', no? No, non ho paura per niente. Vabbè, ti abbraccio, ciao, presto, ciao. Ti abbraccio, ciao ragazzi. Ciao, fratello. La Zanzara. Sono Giuseppe Cruciani, io resto in Italia. Io di solito già lo faccio, dunque non è una cosa che mi pesa particolarmente, ma quest'anno, questo è l'invito che voglio farvi, quest'anno più che mai fate le vostre vacanze in Italia. In questo straordinario paese non si può trovare di meglio e soprattutto in questo modo diamo una mano all'economia. Ciao. Cosa? E questo è il modo migliore per contribuire al rilancio della nostra economia in questa fase di emergenza. Italia spoco. Guarda. L'Italia è sporca. Sì. Sì. Una piotta e 10 così, terza marcia, non ci sono problemi. Non ci sono problemi. Vi insegno a guidare. Quando il semaforo è rosso si fa così. Tac, gli imbocchi qua, gli giri qua, fratelli, così. Vada, fratelli, ho sfornato tutto, fratelli. Ho preso il muro, fratelli. Te dico fermate, fratelli. Ho preso il muro, fratelli. Ho preso il muro, fratelli. Eh sì, fratelli, ho preso il muro. Dai, oggi dovranno così, fratelli.

Pronto? Patrizia? Chi è? Sono Cruciani, come andiamo? Amore, come stai? Bene, grazie. Ma che cazzo hai fatto? Hai cacciato via hai cacciato tua figlia da casa? Ma no, è stata una minaccia, perché mi rompe il cazzo con questa storia qua del coronavirus. Beh, ma come parla, sei contessa? Come parla? Che linguaggio ha? Ma sarebbe una contessa questa, parla? Parla come uno scaricatore di porto. Perché il marchese del Grillo come parlava? Scusa, ma lascia, no, ma lascia perdere Parenzo. È una prerogativa dei nobili di mandare a fanculo. Ma dai, giusto, lascia perdere Parenzo, dice, dai, su. Signora? Non ho capito, perché è ossessionata tua figlia dal coronavirus? Non ho capito. Sì, lei è ipocondriaca, perciò c'ha il terrore di tutta sta roba. Allora, quando esco e quando torno a casa devo levarmi le scarpe, le deve disinfettare, i guanti, una serie di cose esagerate, che l'altro giorno avevo fatto venire a casa la parrucchiera, ma ha cominciato a urlare, come la parrucchiera? Io non ci ho visto più, capito? Perciò un certo la parrucchiera a casa non si può far venire a casa la parrucchiera, che dice? Che fa? È una violazione della legge. Ma quale violazione della legge? Ma pensa a tutte queste leggi che stanno violando dalla mattina alla sera, credo che la parrucchiera che viene con i guanti, la mascherina eccetera, giusto credo proprio che sia una violazione di niente, perché dobbiamo anche prendere le leggi col grano salis, vero? Mica ad essere dei rincoglioniti. Beh, diciamo proprio diciamo, se uno vuole seguire la legge, i parrucchieri non possono lavorare, non possono nemmeno andare a casa, però chi se ne frega. Ma a un certo punto, sì, vabbè, ma uno la legge è fatta anche per essere infranta, voglio dire. Lei dove deve andare? Si tenga quel parrucco che ha e aspetti che finisca, no, per tutti questa roba, no? No, mi dispiace tanto per te, per me stessa. Ma che devi, caruso, fare? Una sfilata de moda? Non ho capito, no, che devi fare? Stai a casa, no? È per me stessa, a me mi piace. Lavati come tutti noi i capelli a casa, anch'io ho i capelli lunghi, lavateli a casa come tutti noi. No, io non mi sono mai lavata i capelli da sola, perciò ho sempre bisogno di un parrucchiere che me li lavi, capito? Ho capito, perciò non ricomincio certo a fare adesso. E impari a lavarti i capelli, sti cazzi, come diresti tu, sti cazzi, contessa. Ti impari a lavarti i capelli. Ma se uno vuole prendersi un parrucchiere, faccia venire il parrucchiere, su. Con la crisi che c'è ti deve dire, io non mi sono mai lavato i capelli da sola, mai, e invece no, vedi, purtroppo colpisce tutti sto virus, ti devi lavare i capelli da sola, che ti devo dire? Ma quando mai? No, perché se io posso avere la parrucchiera che viene a casa che mi rilava, faccio questo e non mi rilavo da sola. Se poi sto in mezzo anche quando stavo a Monte Carlo sulla barca, a un certo punto mi buttavo in acqua e dopo mi sciacquavo i capelli, ma ce li sciacquavo, quelli sono problemi, che stavi a Monte Carlo sulla barca e quelli sono problemi. Ma dai, ma che discorsi sono? Cosa pazzesca. Scusami, ma alla fine, uno sfregio in faccia alla gente. Ma alla fine, dov'è che rompeva il cazzo tua figlia? Cioè, dov'è che rompe il cazzo? Oltre che sulla pulizia generale di casa, eccetera. È ossessionata da prendersi sto coronavirus. Questo è il problema. No, lei è ipocondriaca, perciò c'è il terrore del coronavirus. A te non te ne frega un cazzo. A te non te ne frega un cazzo. Ma sai, nella vita io ne ho passate tante, che il coronavirus sia una cosa che bisogna stare attenti, bisogna mettere tutte le cose, però quando hai preso le giuste precauzioni, basta, non puoi rompere i coglioni dalla mattina alla sera, giri con la pezza a lucidare, a fare, perché a me mi piglia la crisi isterica, scusa, sai. Ah, sì, certo, fondi, certo. No, ma scusa, a sesso come stai andando in questo periodo di clausura tu? Cioè, come funziona la storia? Sessuale non me ne frega niente, perché sono come Maria Goretti, perciò non me ne porta proprio niente. Cioè, è finito, hai chiuso bottega, hai tirato giù la Claire. Ma non me ne frega niente, siccome nella vita non mi sono mai privata di niente, tutto quanto, basta, se dovessi trovare l'amore, ma tanto non me ne frega proprio niente, guarda, non è una cosa che non è uno problema, per esempio, che non mi ci conto. Stai dicendo che la contessa nemmeno si masturba? Beh, vabbè, come si fa a fare una domanda simile? Ma che modalità di parlare in questo modo alla contessa? Ma qual è il problema, contessa? Non ho capito, la masturbazione è una cosa normale. Ma che domanda è una signora? Ma è una cosa naturale tra le persone, una cosa naturale che avviene, uomini, donne, eccetera. Ma fanno più gli uomini delle donne, dai. Ma chi l'ha detto? Ma chi lo sostiene? La masturbazione è una cosa prettamente maschile. E la contessa ha sentenziato che le donne non si toccano adesso, guarda che incredibile. Ma io non ho sentenziato proprio niente, non mi mettere in bocca, per piacere, non mi mettere in bocca cose che io non dico, perché io non ho detto niente di tutto ciò, perciò per favore, io sto dicendo che la masturbazione è una cosa prettamente maschile. Se poi una donna vuole lo facesse, io non lo faccio, però poi c'è chi lo fa. Ma ho capito, ma come si fa a non masturbarsi? È una cosa innaturale. Non si può parlare così a una contessa. Ma la contessa manda a fare in culo tutti, non posso parlare di pugnette con la contessa. Certo che posso parlare di pugnette con la contessa, manda a fare in culo tutti, e posso parlare anche di un problema importante come la masturbazione. Ora, se lei mi viene a dire che lei non si masturba, per me è una cosa innaturale, è una cosa contro natura, cioè è una perversione. Non è una cosa contro natura, perché quando vuole volevo l'uccello, ce l'avevo come mi pareva. Ma come darla? Aspetta. Parlo da sola, non c'ho bisogno. A questo punto non vedo per quale modo io mi devo masturbare, giusto? No, ma che modo di parlare? Ma non è che l'alternativa, che è? Scusami, però, scusami, contessa. È una maniera di parlare, di risposta, di come parli. Brava, diretta, una risposta diretta. Sono molto contento delle risposte dirette. La maniera di parlare in una certa maniera lo so fare. Io so parlare sia a corte, parlando tutto forbito, tutta in maniera. Sia cosa, in maniera un po' triviale, sia in maniera un po' triviale. Poi anche in maniera, e poi anche in maniera, se voglio, triviale, perché io ho un ampio spettro di. Bravo. Alto e basso, direbbe qualcuno. Alto e basso, alto e basso. Posso dirti una cosa? Cioè. Io non so l'età esatta della contessa, io non la conosco, però la masturbazione, che ne so, anche il cunnilingus sono dei succedanei, sono delle cose che possono sostituire il sesso tradizionale, ma no? Scusa, sai, chi lo fa, beati loro, è meglio per loro, io non lo faccio, non me ne frega lei non lo niente. Fa lei non lo fa, lei non lo fa, cioè, per me questa è una perversione, questa è una patologia. Ma è una patologia questa, se una non si tocca e non c'ha nemmeno quello che tu chiami uccello, è una patologia, cioè rimane. Quella sarà per voi, quella sarà una patologia per voi, per me non lo è. Per te non lo è, cioè uno non prende né l'uccello né si masturba e sta tranquilla. Vabbè ragazzi, ma se vi piace così, Se una persona non vuole, allora scusa, interpreti le suore, tutti quelli che sono. Ma mica sei una suora tu, mica sei una. Quanti che fai? Perché tu pensi che le suore non fanno niente? Dai, su, dai. Non lo so, sono problemi loro. A rigore non dovrebbero, perché non dovrebbero avere rapporti. Vediamo. Comunque tu te lo sono sei dimenticata. Tu te lo sei un po' dimenticata questa roba qua. Vabbè, ti abbraccio. Ciao, a presto, ciao. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. It's all you make it, you advertise that you wouldn't take it, all this time, only the best for you. Brasile, usa i muscoli per qualcosa di buono, dai una mano sulla salaria a Susanna, fai qualcosa di buono, porca troia, fai vedere sempre i modelli, vai là e metti a posto qualcuno e fai lavorare quella ragazza, dai cazzo, Brasile, porca troia. Mi confermi, magari sono le 8. Questa stava a dormire nuda dentro al letto. Perquisizione per tutta casa, raga. Io stavo tutto. Stavo a dormire, ho aperto la porta. Mi faccio così, stavo tutto con un occhio incollato. Apro la porta. Se piomba dentro fa polizia. Sguaina la pistola, comincia a girare per casa e fa tu. Aspetta, aspetta, che è successo? È giusto però, è giusto. Che è giusto? Dire le parolacce in un luogo pubblico. Quando tu lavorate è dentro una chiesa, signor. Io mi sono fatto papà oggi. Vabbè, dai papà, andiamo che ho voglia di mandare a fanculo qualcun altro. Voglia la pagata. Poi dicono, così andiamo a scaricare, quel bel cazzo per in faccia che fa tutto. Ti scarico tutte, non andiamo a uscire. Madonna, ragazzi. Menagli, menagli. È vero, sì, è vero. È il padre. Portate via, signore. No, sennò lo cacci offetta a tutti qua. Non permette più. Se vi ho passata, te spacco tutto. Sono sesso da merda. Questo era il padre del signor Algero, caro David. Il padre del signor Algero che faceva un ma po' che di. Bella famiglia. Il padre di Algero, il padre, ragazzi, comunque bisogna risolvere questo problema dello scratch ogni 3 secondi di questa minchia di telefono e di collegamento con David, sennò è insopportabile. La cioè, qualità dell'audio. Ragazzi, è pessima. Non è possibile, dai, non è una cosa fattibile, dai. Ma che bella famiglia che è quella. Cioè, o attacchi qualcosa tu, perché è possibile che dopo 2 secondi torna normale. Cioè, oppure non. Cioè, lasci qualcosa di attaccato che non deve essere attaccato durante l'intervallo, perché sennò non no, è possibile. No, sei porno, sei porno, Giuseppe, se guarda, se ma guarda dai, i porno. Su, qualcosa deve essere, non è possibile. Ma dai. Quello c'ho il computer per quello, Ramelli, cosa dici? C'ho il computer, non il cellulare. Allora, stavo dicendo, quello era il padre l'ho di sentito, fratelli. L'ho sentito, ma è una bella famiglia quella, una bella famiglia. Ma vogliamo una bella riassumere? Famiglia che peraltro telefona alla Zanzara oltre che ascoltarla. Vogliamo riassumere? Chi sia il pubblico. Vogliamo riassumere che cosa è successo negli ultimi giorni? Con il signor Algero? No. A partire dal video? Brevemente il video ormai è diventato famosissimo. Una piotta e 10 così, terza marcia, non ci sono problemi. vi insegna a guidare. Quando il semaforo è rosso si fa così, tac, gli imbocchi qua, gli rigiri qua, fratelli, così. Vada, fratelli, ho sfornato tutto, fratelli. Ho sfornato tutto, fratelli. Ho sfornato tutto, fratelli, ho preso il muro, fratelli. Ho preso il muro, fratelli, te dico fermate, fratelli. Ho preso il muro, fratelli. Te dico fermate, fratelli, ho preso il muro, ho preso il muro. Ho preso il muro, fratelli. Ho preso il muro, fratelli. Ho preso il muro, fratelli. Ho preso il muro, fratelli. Eh sì, fratelli, ho preso il muro. Dai, oggi do anna così, fratelli. Oggi do anna così. Oggi do anna così, raga. Se vi siete salvati alla diretta, siete miardari. Fratelli, no. Fratelli, ne ho preso il muro, fratelli. Allora, deve essere successo qualcosa innanzitutto. Scusami, dopo... ma ho capito sì. bene quando a un certo sì. punto lui dice: se vi siete salvati la diretta siete miliardari, sì. fratelli. Così dice, sì. Cioè, così. Quasi a dire che queste sue res gesta, come direbbero i latini, sì. rendono miliardario chi ha quel filmato. Bah, questo sì, è il senso. Secondo lui, ma insomma, sono tutte cose così. Ma sono qui tutte siamo cose... al delirio. Ma qui siamo allora, al delirio. Abbiamo già detto ieri che questo filmato acquisito dalle autorità ha portato al sequestro dell'autovettura e alla sospensione meno della male. Patente da parte meno del male. Signor. Del signor Algero. C'è anche da notare una specie di e conflitto. E tu non gli dici niente. C'è un prima abbiamo intervistato quel signore che ha perso i figli in un incidente stradale di un altro pazzo. E invece questo qui poteva essere un altro pazzo come quello. Oggi do anna così, regà. Se vi siete salvati alla diretta siete miardari, fratelli, no. E c'è da registrare uno scontro con il suo padre putativo, praticamente, cioè dire con il brasiliano. Il brasiliano, sentiamo il brasiliano che ha litigato con il signor Algero. Algero. Però che cosa è successo? È successo che ieri ci siamo visti. Ieri siamo andati a Torbella Monaca. A Torbella Monaca. E io l'ho fatto chiarire con tutta Torbella Monaca. Perché vabbè, questo ragazzo in passato veramente ha fatto i danni con la bocca. Ha fatto i danni con la bocca. Ha dissato tutti, ha preso per culo tutti. E va bene. Anche al di fuori mi sono state dette alcune cose che lui anche al di fuori dei social ha creato. Io ho visto una persona veramente sola, una persona che comunque mi faceva tenerezza pure. Vedi che la verità, io sono un ragazzo che comunque cerco di aiuto a tutti quanti. E ieri, vi ripeto, siamo andati a Torbella Monaca e ci sono testimoni i ragazzi dell'R3. Io l'ho portato lì, l'ho fatto chiarire con tutti, perché lui ha dissato gente brutta di là. Bella questa espressione moderna, contemporanea. Ha dissato gente brutta di là. Ha dissato, il dissing. Mamma mia. Io non c'ho paura, ragazzi, il brasiliano c'ho paura manco dalla morte, quindi io c'ho paura di nessuno. Però non è giusto, non è giusto che io ci vada a rimettere. Io ho fatto un cammino, io ci ho messo 24 anni per ripiamme, adesso mi sto riprendendo, adesso mi sto riprendendo, adesso sto lavorando, ho imboccato la retta via. Arriva questo con 5 giorni, ma aveva invaso il cervello di malavita un'altra volta, perché io mi sono levato dalla strada. Questo 5 giorni mi ha fatto ripiombare nella malavita a 360 gradi. Io non posso girare con la scorta perché c'è sta lui, parliamo se chiari, oh. Io non posso andare a piazzare di lusta con la scorta, oh. Ma io non mica ho mai fatto la spia, perché io non mi devo proteggere da nessuno. Io non mi devo proteggere da nessuno. Ieri per una piazza di lussa io ho affittato la scorta. E non è possibile. Io posso finanziare la scorta. È un grande confronto, diciamo la verità. È un grande scontro al vertice delle istituzioni. Un grande scontro al vertice tra filosofi. Tra filosofi del diritto, tra giuristi, eccetera, eccetera. È come se ci fosse un confronto tra Zagrebeschi, non so, e Cassese. È la stessa cosa. Chiamerei innanzitutto Algero. Chiamerei Algero. Facciamo una telefonata ad Algero per capire come sta dopo il sequestro della patente. Dopo il sequestro della macchina, anzi il ritiro della patente. Fratelli, oh. Oh, a Crucia. Amico mio. Sei il numero uno. Ma scusa un attimo, ma a te ti hanno fatto un favore? Con sta macchina ti hanno fatto un favore o no? Alla vedete che favore che mi hanno fatto. Comunque, bene, bene che ti abbiano tolto la patente, sono Parenzo. Mi sembra il minimo. Il minimo. Lui dice il minimo, che te devo fare? Ma io non ho fatto certo. niente. No. Beh, insomma, non hai fatto niente. Come al solito, non ho fatto niente, tutto adesso, come al solito. Questo non è vero. Era tutto finto, era tutto finto, io non ho fatto nulla. Ma come tutto mi finto? Mi hanno messo al centro. A me la polizia mi ha pagato per fare quel video. Ma sì, ma dai, adesso, adesso, sì, adesso non vedi, arriviamo, non diciamo arriviamo, cazzate. Non arriviamo adesso a queste cose qua, amico mio. La polizia non no, ti... No, è la verità, è la verità. Ma chi ti ha pagato? Ma non è possibile, tu stai infangando le forze dell'ordine in questo modo, dai, su. No, no, no, no, no, a me la polizia mi ha pagato, adesso mi ha tolto la patente, sono venuti, mi hanno tolto la macchina, tutto quanto, mi vogliono togliere pure casa, pure il diritto di respirare. Casa, casa, come ti fanno a togliere casa? Dai, su, non è che ti possono togliere casa, fratelli, dai, su, cioè, Algero, non ti possono togliere casa. Tu hai fatto un video, pensavi di come sempre hai fatto un po' di passarla liscia e invece ti hanno preso di mira perché è diventato, come dire, no, come si dice, virale, virale, no? E mo che devo fare? Ma che devi fare? Non devi dire, cazzi, non devi dire, devi chiedere scusa, devi pagare e non prendi più la macchina perché sei un pericolo volante. Ma davvero pensate a di questo? No, ma io pericolo. Ma pericoli sono altri. Diciamo la verità. Allora, a me non me ne frega un cazzo, ognuno fa quello che vuole. Se uno vuole diventare famoso facendo i video così, facesse così, a me che cazzo me ne frega. Ma che esempio è per i giovani? Scusa, ma che esempio è per i giovani? Come ma che? Che esempio è? Vabbè, ma che c'entra? È l'esempio della resistenza. Quale resistenza, scusa? Beh, che vuol dire l'esempio? Nel senso, a fate lì, qui a guida, l'ebbrezza, devi provare l'ebbrezza, devi essere una persona forte. Ho capito, però uno poi paga le conseguenze, uno può pure fare come dici non tu. Non ci sono problemi, non ci sono problemi. Cioè, dunque, a te, diciamo la verità, non te ne, di quello che ti è successo, sequestro della macchina. Non me ne frega un cazzo. Non te ne frega niente, oh, questo è tanto il... Io domani riprendo la patente perché io sono pulito. Non mi drogo, non faccio nulla, sono pulito, non ho problemi. Mi hanno tolto una macchina, perfetto, me ne farò un'altra. E rifai le stesse cose magari, magari rifare... Peggio di prima. Peggio, peggio di prima. Si tenessero la macchina e la regalo, tanto era il leasing. Comunque ragazzo mio, non sei pentito di nulla di quello che hai fatto? Nulla. Non mi pento, mai, mai. Ma... Lei è semplicemente un giovanotto, trapper, mezzo criminale. Che rap, canta ex canzoni discutibili, ex rapper, non lo so. Che... Mezzo criminale, ma come? Prima sono un criminale, mi dà 110. Non togliere mezzo, non togliere mezzo. Un personaggio, comunque quello che sfrecciava, no, che sfrecciava 110 km orari in città, facendosi un video col telefonino dicendo a fratelli, fratelli. Ora, se io mi fossi trovato nei paraggi, avrei avuto paura ad attraversare la strada con uno che corre a 110. Quindi la logica finto, vuole. Non ero io, non ero io, era tutto green. Sì, vabbè, comunque non fare adesso l'agnellino. Il punto è questo: l'hai fatto, non ti penti, come hai detto prima, se lo rifarai ancora una volta, prenderai un'altra. Ma perché dovete mettermi in bocca parole che non ho detto? Ho detto che io non ero, non ero io, non ero io, non ero in me, non ero in me, non ero io. Bisogna sentirsi vivi, vivi. Sentirsi vivi, vedi, sentirsi per vivi. Per sentirsi vivi basterebbe leggersi un libro, fare una conversazione con un'amica, bersi un aperitivo. Ma io mi metto a dormire, io. No, ho capito, però al cinema ci vai, non ho capito, al cinema, a teatro, al cinema, ad esempio. Sono io il cinema. A teatro sei mai andato? A teatro? All'opera, a Verona, teatro. All'opera. A teatro sì, ci sei mai andato? A teatro, sì. Aspetta, a teatro. E teatro è quando faccio le dirette io. Questo è il giustamente. No, a teatro, a vedere il grande Glauco Mauri, ad esempio uno dei più grandi attori italiani che ha più di 90 anni. Ma magna colazione, ma chi è? Come chi è? Glauco Mauri. Ma non lo conosce. Se non lo conosce è un ignorante, ma che vuol dire? Glauco Mauri. Ma non è famoso per te che dici solo fratelli. Ma che razza di ma mondo è questo? Su Google, ma chi è questo? Ma no, ma che cazzo è? Come che Glauco Mauri? Ma lascia perdere, ma non lo conosce. Ma lascia perdere un cazzo. Ma non ci va a teatro, che gliene frega, no. Quello a stento sa. Allora che... voglio dire all'opera, almeno all'opera a Verona, a vedere la a vedere. Conosco solo il carciatore. Giustamente quello che giocava nella Lazio. All'opera a Verona, a vedere l'opera, la Ida. Meraviglioso, 3 ore di opera. Ma io sono un'opera, ma non hai visto quanto sono bello con tutti i tatuaggi sulla faccia? Sono io un'opera. Sì, voglio capire una cosa, amico mio: com'è finita la storia lì con la polizia? Perché la polizia è venuta pure a casa tua a cercare di trovare una pistola. Hanno trovato qualcosa? Hanno chiesto le foto. De che? Con me. No, ma mi hanno chiesto le foto. Hanno stessa la mano, mi hanno detto, oh, sei in grande, ho visto il video, bello. Ma come, che cercavano? Una pistola, che cercavano? Che cercavano? Quello che ne hanno trovato. Non hanno trovato un cazzo alla fine. Perché hai litigato col brasiliano alla fine? Non ho capito. Perché è uno stronzo. Come uno stronzo? Sì. Ma no, il brasiliano è uno stronzo. Il brasiliano c'è un litigio tra star, diciamo, no? Tra litigio col brasiliano. Litigio col brasiliano non va bene. Litigio col brasiliano. Lui dice che non si può più far vedere con te in giro perché hai combinato troppi casini. Così ha raccontato sui social. Dice che l'ho portato nella malavita a 360 gradi. Quindi. Ma allora è uno stronzo? È uno stronzo. È uno stronzo, vabbè. Brasilia dice che sei un grandissimo stronzo, Algero qua. Algero. Sì, Algero ha detto, sì, ha detto. Mamma mia, ma hai pure chiamato mo. Che fine, senza te me è finito. Ma come? Lo trovino. Stava a dormire. Al verano lo trovino. Perché al verano? La prima volta, No, ragazzi, cos'è questo confronto? Da una parte c'è il signor Brasile, già noto anche lui alle cronache. Che dice una marea di cazzate. Dall'altro c'è quest'altro signore che si chiama Alghero, che è stato appena fermato. Lui sta in provincia di Alghero. Alghero. C'era Alghero. Questo confronto. Ma io vengo disturbato, stavo dormendo. Che mi va a fanculo in diretta. Ma da te, brutto idiota. Io voglio capire Regalato. Io voglio capire una cosa. Perché? Ma non è il confronto di Micromega questo, di Limes, della rivista Limes. Perché Limes. Avete litigato? No, Davide Golia. Scusami, Brasile, voglio capire una cosa. Perché hai abbandonato Algero dicendo che ti provoca solo guai, ti porta nella malavita? Proprio tu dici che ti porta. Fa solo danni. Io non posso stare. Io già ho tanti cazzi per culo. E questo fa solo danni. Lo sapevo quello, Brasile. A parte che mi fa da scendiletto, a parte quello, ma è un bravissimo ragazzo. Soltanto ha fatto troppi danni sul web. Sul web e non solo. Io non posso piegare schioppettate per lui. Cioè, hai capito? Come schioppettate? Cioè, rischi di piegare schioppettate? Io penso proprio che gira qualche schioppettata via Roma. Ma perché? Ha capito? Cioè, se ti fai vedere con Algero, rischi di prenderti le schioppettate per quello che ha fatto e per quello che ha detto. Questo è il punto. Sì, perché ha fatto vedere il pisello a tutto il mondo. Quindi non è una cosa giusta. Però, dico solo una cosa, scusate, qualora Zagrebelsky non fosse d'accordo col professor Sabino Cassese, non finirebbe a schioppettare. Lo vi al culo tutto il mese, Cassese. No, ma perché? Scusami, Algero, io non ho capito. Ma come si fa? Ma perché? Ma che vergogna perché, è? Perché che c'è vergogna stata questa gente qui? Perché c'è stato questo litigio, diciamo, tra voi, allora? Cioè, la responsabilità di chi è? Perché Brasile dice tu sei ancora un criminale e lo porti sulla strada della criminalità. Lui devo litigare per forza, perché non posso andare a Piazza di Lusta con la scorta, cioè non esiste, capito che te voglio dire? Io per Roma ci cammino da solo a testa alta e nessuno mi ha mai rotto i coglioni. Va bene. Ho capito, queste sono storie. E se me rompo nel cazzo se vengono pure tu mazzettate. Beh no, questo non è buono, non è buono. Algero cosa fa tutto il giorno lei, signora Algero? La sua giornata pippa ai preti, fa. Bello anche questo. Ma la giornata sua tipica qual lei, signor Algero? È rompere il cazzo al prossimo. Bravo. Io voglio capire una cosa, il rapporto delle forze dell'ordine con Algero qual è? Un rapporto conflittuale, diciamo, no? No, io penso che ci amiamo, visto che in 5 giorni sono venuti tutti e 5 giorni a casa mia, penso che è un rapporto d'amore. Anche tu, Algero, si vede che lei... ci va a braccetto, fratelli Algero, ci va a braccetto che le forze dell'ordine, un po' sta vicino a me, capito? Io non mi schianto mai, neanche quando prendo il muro. Vabbè, ciao Algero, ciao. Più forte, ciao. Grande confronto Algero-Brasiliano. È un ambiente inquietante. Ragazzi, italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Stanno sanificando il negozio.